Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno a tutti, bentrovati. Questa volta faremo una puntata speciale che avrà un inizio il sabato e una seconda parte la domenica, perché abbiamo la possibilità di parlare con uno degli economisti più influenti al mondo, ovvero la professoressa Mariana Mazzuccato, che insegna teoria dell'innovazione all'Università del Sussex, che è un consulente molto ascoltato da tanti governi e che è recentemente entrata a far parte dell'advisory board del leader del partito laburista Jeremy Corbyn, e si trova nella compagnia di nomi come Stiglitz e Piketty in questo advisory board. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Ecco, Mariana Mazzuccato è diventata famosa per un suo libro che si chiama Lo Stato Innovatore. Io in realtà l'avrei chiamato Lo Stato Imprenditore, ma forse il nome è stato scelto per non creare equivoci con l'idea dell'IRI. Ecco, nello Stato Innovatore, che è stato tradotto credo in quasi 60 lingue, sostiene che l'unica via per la crescita economica è la ricerca e sviluppo finanziata dallo Stato, perché lo Stato dispone di capitali pazienti da investire nelle università, e dalle università i risultati della ricerca arrivano alle aziende e da qui viene fuori la crescita economica. In realtà il suo lavoro è molto più complesso, perché c'è una prima parte, che è quella di questo libro, che indaga su come si crea il valore, una seconda parte, che sarà quella del prossimo libro, che indaga su come si redistribuisce il valore. Ecco, avere evidenziato così tanto il ruolo dello Stato ha reso la professoressa Mazzuccato un economista controcorrente, perché in realtà negli ultimi anni tutti svalutano lo Stato e si è diffusa l'idea, il luogo comune, che meno Stato c'è e più l'economia cresce. Invece lei ribalta questo paradigma e lo dimostra andando a evidenziare quanta parte di contributo dello Stato ci sia nelle innovazioni tecnologiche e nei prodotti di maggiore successo negli Stati Uniti e nel mondo. Per esempio, larga parte del suo libro è dedicato alla Apple e dimostra che i prodotti di successo della Apple, oltre il 90%, discende da ricerche finanziate dallo Stato. Intanto però, prima di arrivare al dunque di questa lunga ed eccezionale intervista che le faremo, chiederei alla professoressa Mazzuccato che cosa significa far parte di questo advisory committee di Corbyn. Prima di tutto vuol dire essere, cioè dobbiamo rimanere critici, perché nessuno di noi è nel partito del lavoro, nel Labour Party inglese, però siamo molto committed, non so come si dice in italiano, all'idea di cercare di creare un tipo di crescita diversa, perché in questo momento in Inghilterra, a differenza dell'Italia, c'è crescita, quindi saremmo stupidi a dire che non c'è crescita e che quindi c'è bisogno di un altro, diciamo, piano economico per averla. Bisogna invece puntare su che tipo di crescita vogliamo. E noi, almeno io, Piketty, Stiglitz e degli altri, incluso Simon Rann-Lewis a Oxford, siamo persone che in modi diversi abbiamo parlato proprio di questo. Io, diciamo, sulla crescita che è guidata dall'innovazione e dagli investimenti e da un nuovo rapporto fra industria e governo, perché mi sembra che bisogna creare partnerships più simbiotici, meno parassitici. E ovviamente Stiglitz parla molto dei problemi che ci sono con l'austerity, soprattutto su come il peso cade sempre alla fine sulle persone più deboli, e Piketty col suo lavoro magnifico empirico sulla diseguaglianza e su che tipo di riforme, diciamo, fiscali sulle tasse bisogna avere. Siamo tutti diversi, che magari anche ogni tanto possiamo anche avere opinioni diverse fra di noi, però il nostro scopo è di aiutare. Ecco, ma lei che crescita vorrebbe per la Gran Bretagna? In questo momento, se uno guarda per esempio il rapporto fra a livello personale delle persone, non del governo, fra debito e salari, cioè debt to income ratios, siamo di nuovo come era prima della crisi, cioè che stiamo avendo un tipo di crescita che è trainata dal credito, perché i salari non sono andati su, ma ancora dagli anni 80 non sono andati su, rimangono abbastanza stagnant, c'è lavoro, ma sono lavori precari come anche in Italia, e quindi quando uno cerca di far crescere il PIL si può anche fare semplicemente dando più credito, come hanno avuto, c'è stato tutto un programma su fare più facile comprare le case, questi ease to buy schemes, che non è esattamente quello che bisogna fare quando le persone non hanno. Quindi c'è una crescita gonfiata. È una crescita assolutamente gonfiata, abbiamo una crisi della produttività simile a quella italiana, non c'è solo l'Italia che da 20 anni non cresce la produttività, e quindi un certo tipo di investimenti sia pubblici che privati, anche perché io non è che parlo solo di Stato, parlo proprio dei problemi che ci sono fra il rapporto fra Stato e industria, quando non c'è un rapporto teso e sano anche l'industria stessa non investe più. Infatti in Inghilterra c'è una crescita anche finanziarizzata, nel senso che l'industria spende più su semplicemente boost, come si dice, tenere alti i prezzi di mercato, cioè i stock prices, che poi porta su anche il prezzo dei stock options e quindi anche la paga di chi viene pagata con i stock options, che sono di solito i più alti manager e executive. Questo è un problema perché i profitti invece dovrebbero essere reinvestiti, soprattutto quando quei profitti sono generati da un contributo pubblico, che questo diciamo poi è la tesi del libro, bisogna chiedere da dove vengono i profitti. Quindi il nuovo rapporto tra industria e governo dovrebbe essere, secondo lei, che il governo fornisce alle industrie un patrimonio di know-how e di ricerca che poi viene investito in nuovi prodotti industriali. Sì, dove poi i profitti che vengono generati da quei prodotti, ma anche i servizi, ci dovrebbe essere un patto, come c'era, cioè se guardiamo nel passato anche alcune industrie più innovative, ma anche imprese più innovative tipo AT&T, quando c'era Bell Labs, che era un laboratorio di ricerca e sviluppo dentro di questa casa telefonica AT&T, che al tempo era un monopolio, c'era un accordo con lo Stato che quei profitti monopolistici dovevano essere reinvestiti non solo nell'economia reale, non solo nell'innovazione, ma le grandi innovazioni che erano rilevanti non solo AT&T, ma tutta l'economia. E Bell Labs è nata come diciamo frutto di quella provocazione. Oggi invece purtroppo quando ci sono i governi che cercano di essere business friendly, no? Di essere visti come amici dell'industria, la domanda, come si fa anche in Italia da Renzi, dicono che tipo di quanto vuoi? Tasse cosa vuoi? Volete che abbassiamo, che tipo di regole, no? Il famoso red tape volete che togliamo. Quindi il governo si mette al servizio dell'industria, esatto, in modo acritico. Acritico e quindi non fa il bene dell'industria nel lungo periodo. Esatto. Fa il bene di chi gestisce quelle industrie nel breve periodo. Esatto, e un'altra cosa che vorrei specificare di quello che lei aveva detto all'inizio, diciamo come introduzione, sulla parte di come si crea, diciamo, questo valore con questi partnerships importanti fra pubblico e privato, il mio punto non è che è solo la ricerca. Se guardiamo tutto quello che è successo in Silicon Valley, ma anche in Germania, in Danimarca, in Israele, dove hanno avuto questo tipo di crescita trainata dall'innovazione e dall'investimento, il tipo di aiuto, diciamo, dallo Stato, il tipo di investimenti dello Stato era sia nella ricerca di base, ma anche più downstream, cioè in tutta la catena dell'innovazione, quindi anche ricerca applicata, moltissima, e anche proprio il capitale paziente per la stessa impresa, cioè questo early stage high risk finance, che in teoria dovrebbe venire dai venture capitalists, che però in quasi tutti questi paesi è sempre venuta prima dallo Stato, e solo dopo questi stessi venture capitalists entrano. Quindi anche, non so, Elon Musk, che è il capo sia di Tesla e anche di SpaceX, lui è un impero. Anche lui si avvantaggia di una ricerca pubblica. Beh, lui, proprio la sua impresa ha avuto soldi, non solo la ricerca di base che poi lui ha usato su tutto quello, diciamo, che è SpaceX, no? SpaceX è questa impresa nello spazio che adesso sta cercando di interagire in modo interessante sia con la International Space Station, ma anche con questo progetto di andare a Marte. Lui, la stessa Tesla ha avuto soldi dal governo, cioè quasi 500 milioni di dollari garantiti da chi paga le tasse, quindi il taxpayer, professoressa, lui ha avuto un prestito di quel genere, che vuol dire che se poi andava tutto a monte, cioè se la Tesla S, la macchina, andava a monte, voleva dire che lo Stato copriva il costo, invece è andato tutto bene. Perché non c'erano garanzie reali a questo prestito. Come? Non c'erano garanzie reali, il prestatore, cioè lo Stato, si accollava al rischio, non era un prestito garantito da depositi bancari o da... No, era un prestito garantito dallo Stato, nel senso che se va tutto bene nessun problema, se va male sì, lo Stato lo prende. Quando quel stesso tipo di prestito è andato male, come è andato male per un'altra società che si chiama Solyndra, di cui si è molto parlato, quindi era un'impresa... di pannelli solari che è andata tutto poi a monte, aveva ricevuto 500 milioni di dollari, mentre Tesla mi sembra che erano 465 milioni, è andato tutto male e infatti lo Stato ha dovuto coprire i costi e lì la gente si è molto incavolata, giustamente. Ma certo, però bisognerebbe chiedere perché si sono incavolati, anche perché non si parla di questo tipo di Stato innovatore, Stato che investe. Se si parlasse più apertamente, ci sarebbe dovuto una maggiore consapevolezza che non esiste. No, sì, ma una consapevolezza anche dei successi, no? Quindi tutti sanno che Solyndra è andata male, nessuno sa che Tesla stessa ha avuto quei stessi soldi e invece è andata bene, ma parte di questo discorso, che è tutta la seconda parte del mio libro, è allora, scusa, proprio come fanno i venture capitalists, bisognerebbe distribuire non solo i rischi, ma anche i ricavi, nel senso che se lo Stato innovatore investe tenendosi questi rischi, anche i profitti che vengono dai successi, almeno una piccola percentuale, potrebbe ritornare a queste stesse agenzie statali, in questo caso al Dipartimento di Energia, che può usare quel ricavo per coprire il fallimento, che è inevitabile fallire quando uno prova a innovare. Invece socializziamo solo il rischio e non i ricavi. Ecco, ci interrompiamo un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Vi presenta Fabbrica 2.4. Fabbrica 2.4, stavamo parlando con la professoressa Mariana Mazzucato, uno degli economisti più influenti al mondo, che in questa lunga intervista ci spiegherà come sta funzionando l'innovazione nel mondo e quali politiche possono supportare le aziende e soprattutto le aziende dell'economia reale che cosa devono fare. Ecco, professoressa, ma lei diceva che vorrebbe agire sulle modalità della crescita in Inghilterra. Ok, però comunque anche se l'Inghilterra ha dei problemi, gli investimenti in ricerca e sviluppo che si fanno oltre manica sono comunque superiori a quelli che si fanno in Italia. In realtà non tanto, nel senso che il privato qui è più basso della media nell'OCSE, uh-huh, come anche lo è quella italiana. Sulla parte di higher education R&D, cioè quello che si spende, diciamo, a livello proprio dell'università, si spende parecchio, ma per esempio questa stessa statistica che si chiama GERD, cioè quello che spende il governo in tutto la ricerca e sviluppo, sì, quella parte del GERD che è, diciamo, governativa, ci sono diverse parti, una parte sulle università, un'altra parte sarebbe sull'equivalente dei laboratori pubblici, si chiama GOVERD, e questa per esempio è bassissima in Inghilterra, mentre è molto alta negli Stati Uniti. E il dilemma per qualsiasi nazione è come farli interagire. Cos'è che deve fare il governo quando spende nella ricerca e sviluppo per far sì che la parte privata anche aumenta? Perché ovviamente non si può, cioè non è sostenibile pensare che solo il governo, attraverso diverse agenzie, dipartimenti, quello che è, che spende sulla ricerca e sviluppo. Bisogna che alla fine questi investimenti, che ci sia un coinvestimento da parte dei privati. Sì, e il problema in Inghilterra è che recentemente hanno non solo abbassato la parte, diciamo, nell'equivalente, non so, in America per esempio ci sono questi National Institutes of Health, perché il Dipartimento della Salute, dopo il Dipartimento di Difesa, è il secondo dipartimento che spende di più sulla ricerca, certo, e sviluppo, e questo è proprio anche in laboratori pubblici. In Inghilterra non c'è questo tipo di spesa, è solo attraverso le università, e è soprattutto nella parte di basic research, sulle ricerche di base, questo è forte in Inghilterra, ma sono meno forti sulla parte applicata e non hanno poi la parte che dicevo prima sulla finanza, diciamo, paziente per le imprese stesse. Assumono che questo verrà in qualche modo da o venture capital o che ne so, del stock market. Ecco, venendo e quindi invece... si stanno concentrando troppo su una parte della catena e alla fine non funziona, come anche nell'Unione Sovietica si sa che spendevano moltissimo su ricerca e sviluppo, forse più di qualsiasi paese, ma non abbastanza in tutte le istituzioni che poi fanno le connessioni fra l'industria e l'università. Ecco. E su questo abbiamo recentemente investito, c'è quello che si chiamano questi centri Catapult Centers, sì, Catapult, che erano modellizzati con il modello dei Fraunhofer in Germania in mente, solo che alla fine hanno speso 10 volte meno in Inghilterra che in Germania su questo tipo di... Vabbè, diciamo, comunque quella spesa inglese che potrebbe essere migliorata, comunque sia è superiore a quella dell'Italia, dove si fa ben poco. No, assolutamente, infatti in Italia la battaglia è molto più grossa perché non hanno neanche il seme in questo momento, cioè almeno qui ci sono questi catapult centers, uno deve poi riformarli, dargli più soldi, far entrare anche persone molto intelligenti a guidarli, questa è una cosa fondamentale. Cioè almeno c'è stato un inizio, qui non c'è niente. Esatto. E poi qui si tende a credere che più lo Stato si ritira, più l'economia lasciata da sola tende a crescere, e l'economista Filippo Taddei, che è consigliere economico di Renzi, lo predica. Sì, ma io sono stata molto critica di Renzi, nel senso che io almeno speravo, proprio perché diciamo veniva dopo un periodo abbastanza buio in Italia sugli investimenti di questo genere, perché da 20 anni non sono cresciuti gli investimenti e proprio per questo da 20 anni non cresce la produttività in Italia, e invece ha fatto due cose Renzi, un po' di dogma intorno alla scuola, ma alla fine gli investimenti netti non sono aumentati, perché hanno giustamente reso i precari diciamo più stabili, però spendendo gli stessi soldi. Esatto, tenendo gli stessi soldi. E due, ha attaccato in modo fortissimo il sindacato e i diritti dei lavoratori senza nessuna evidenza empirica, perché torniamo a quella storia dell'articolo 18 che purtroppo aveva preso così tanta attenzione del paese, lì bastava guardare l'impresa media in Italia, quanto grande è piccolissima, ci sono 4-5 lavoratori. Se veramente l'articolo 18 fosse stato questo enorme impedimento alla crescita italiana, uno avrebbe dovuto vedere tantissime imprese con 12 o 13 o 14 lavoratori, perché appena assumevano il 15esimo, no, scattava l'inferno. Invece no, cioè, proprio statisticamente era ovvio che non era quello il problema. Quello che manca in Italia è proprio questo tipo di sistema innovativo che c'era. E i relativi investimenti, certo, per i famosi 80 euro di Renzi sono stati investiti e stanziati 10,5 miliardi di euro all'anno, e quei soldi avrebbero potuto forse andare nella ricerca. Sì, ma non bisogna guardare queste cose come un trade-off, cioè o li dai ai lavoratori o li metti sulla ricerca. Probabilmente quello che bisognava fare è porsi veramente il problema: com'è che si può aumentare i salari alla fine in modo serio, non con questi bonus che insomma sembrano un po' fatti solo per fare un po' più contenti per un periodo temporaneo un po' di persone, ma com'è, cioè è serissimo il problema sulla domanda, anche visto solo dal punto di vista dell'industria. Cioè bisogna aumentare la domanda dei consumatori in modo sensato e sostenibile, e quindi anche dire aumentiamo di 80 euro il salario, uno potrebbe dire che... Alcuni salari mica tutti. Sì, alcuni salari, però quello non è il modo da farlo, come diceva Minsky, jobs not welfare, cioè lavoro non il welfare, che ovviamente bisogna avere uno stato di welfare, però... La vera, diciamo, domanda seria che viene dalle persone che alla fine comprano e che spendono viene quando sono sicuri del loro futuro. Se uno rimane insicuro, e qui in Italia c'è un'incertezza enorme. Esatto, quando c'è un'incertezza, anche se uno ti fa un regalo di 80 euro, non è che lo vai a spendere subito, te lo tieni. E infatti i consumi non sono aumentati. Sì, ma cioè, lì secondo me Landini ed altri avevano ragione di puntare questo. Io ho parlato con Landini varie volte e la cosa più interessante che mi ha mai detto Landini era questa sua esperienza quando la Ducati è stata comprata dai tedeschi. Lui ha avuto l'esperienza di sedersi al tavolo con l'industria tedesca, il governo tedesco, i lavoratori tedeschi, e si parlava solo di investimenti. Che tipo di investimenti l'industria avrebbe fatto se il sindacato accettava anche un po' di sacrifici? E invece in Italia era tutto sui sacrifici che doveva fare il sindacato, senza la contraparte di quello che quindi l'industria doveva fare per essere sicura che nel futuro, nel lungo periodo, questi stessi lavori che fanno i lavoratori aumentavano sia di qualità. E perché in Italia c'è come la convinzione che basti agire sulle regole del lavoro, sul costo del lavoro, e magicamente si innesta la crescita. Sì, perché c'è questa visione che in qualche modo c'è un'industria effervescente che vorrebbe investire, vorrebbe innovare, e non lo fanno solo per via di diversi tipi di impedimenti che potrebbero essere sia quelli burocratici, perché in effetti c'è molta burocrazia in Italia che insomma bisogna anche fare quella lotta lì, ci sono ovviamente modi anche da fare più facile, che ne so, aprire e chiudere un'impresa, questi startups, no? Che certo, in alcuni paesi si possono aprire più facilmente. Ovviamente questa è una cosa anche di nuovo da fare, però non è vero che basta semplicemente togliere alcuni impedimenti, improvvisamente questa industria farà tutte queste cose fantastiche. Ecco, soprattutto anche bisogna capire cos'è che manca a livello proprio strutturale, e perché sia il privato che il pubblico sono diventati molto inerti in Italia. Ecco, ci avviciniamo alla fine di questa trasmissione, ma la conversazione con Mariana Mazzucato continua nella giornata di domani, quando ci sarà la seconda puntata della settimana di Fabbrica 2.4. Quindi io vi do appuntamento a domani, domenica, alle ore 13.